oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. E la formazione si è ricomposta per il terzo appuntamento, al volo è rientrata anche Francesca, quindi ci siamo, possiamo partire puntuali o quasi, 13.02 minuti, oltre la crisi, terzo appuntamento. Buongiorno Francesca. Buongiorno, buongiorno. Stavo litigando con la tecnologia e buongiorno a Francesco Campione, che è sempre qua con noi ovviamente. Buongiorno, buongiorno. Per affrontare il tema del giorno. Allora, la settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare di migrazione e di quello che, partendo appunto dai fatti di Lampedusa. Oggi la voglio affrontare da due punti di vista. Innanzitutto quello, continuiamo sul filone appunto del migrante che arriva da lontano e che arriva da noi, e poi dopo però ti voglio leggere un SMS che ci è arrivato sul filo della sigla la settimana scorsa e che ho promesso appunto che saremmo ripartiti da lì per invece parlare di cittadinanza o non cittadinanza, sentirsi cittadini del mondo o di uno sputacchino di paese a seconda delle sensibilità. Ma partiamo, la notizia da cui partiamo oggi è questo titolo: Francia espulsa ragazzina rom. Se ne è parlato tanto dalla settimana scorsa, insomma, che è successo dal 17 ottobre la notizia, e tra l'altro la notizia dell'Asca ci riportava il fatto che migliaia di liceali erano scesi in piazza per protestare appunto su questo prelievo forzato di questa ragazza, una ragazza in realtà kosovara. E cominciamo subito a parlare innanzitutto di termini. Io prima fuori onda, mentre rileggevo questo titolo, espulsa ragazzina rom, era anche una parola chiave con cui ritrovare la notizia su internet, per esempio, perché quando si dice rom si dice una parola generica che non definisce niente, che non dà identità, che non dà peso alla vera provenienza della persona di cui si sta parlando, e però richiama invece tante altre cose che non sono proprio positive. No, ma questo sembra un'esercitazione linguistica, ma in realtà non lo è, perché ogni parola, ogni identificazione in qualche modo, cioè noi ci dicono italiano, italiano vuol dire brava gente, sconclusionato, anarchico, imbelle, inaffidabile, teatrante, artista, eccetera. Allora il problema è, quando un termine si usa, bisognerebbe sempre chiedere a chi lo usa quale significato sta dando a quel termine lì. Tornando al termine rom, per non complicarci troppo la vita, io credo che ci siano in questo termine, come in tanti termini in qualche modo identificativi, ci siano aspetti positivi e aspetti negativi. Ci sono aspetti che consentono di usare il termine ponendo a distanza e quasi disumanizzando, rendendo diversi da noi quelli che li chiamiamo rom. Per cui poi diventa più facile espellerli se sono diversi da noi. E d'altra parte però il termine si porta con sé tutta la sedimentazione della storia, per cui per esempio quando a me dicono quello è un rom, io penso subito che sono stati internati nei campi di concentramento insieme agli ebrei. E per cui da un altro punto di vista rom è una gloriosa identificazione, cioè è in qualche modo un qualunque rom, anche se non è stato nei campi di concentramento, anche se ha fatto solo il rom classico, nel senso di nomade, nel senso di ladro, nel senso di persona che si arrangia ai margini della società, anche se ha fatto solo quello, però è portatore di una dignità che gli deriva dal fatto che la sua razza, la sua etnia, l'essere rom ha comportato storicamente una persecuzione. Quindi io starei molto attento, per esempio, quando si dice nel politicamente corretto, che bisogna sempre criticare, quando si dice, per esempio, non bisognerebbe chiamarli Rom, si dice una cosa giusta. Bisognerebbe chiamarli per nome e cognome, come tutte le persone di questo mondo, cercare di capire se sono violente o no, se sono brave persone, bisognerebbe capire di tutti. Però contemporaneamente non bisogna dimenticare di cosa è portatore, di quale storia che va al di là di sé è portatore o è portatrice una persona. L'altra volta abbiamo parlato di accoglienza e appunto la storia di Leonarda, questa ragazza in realtà kosovara e assolutamente non itinerante come tipo di stile di vita, per intenderci, è stata molto brutta anche perché espulsa in fretta e furia, in una maniera anche molto violenta, durante nel senso, una gita scolastica. Esatto, è stata presa, prelevata, buttata su un volo e mandata a Katowice. Ci dice, tra l'altro, ci raccontava il Fatto Quotidiano, che sempre in Francia c'è un altro ragazzo, Kachik, uno studente sans papier, armeno in questo caso, che ha fatto la stessa fine di Leonarda. Allora, l'altra volta avevamo parlato di comunità accogliente, della comunità ricevente, come si deve porre, cosa potrebbe fare per migliorare anche l'arrivo di persone che comunque hanno già perso tanto prima di arrivare qui e accolte, mal accolte, perdono ancora di più. Sì, no, questo è, come dire, la tragedia del nostro tempo. Questo episodio di questa ragazza, per esempio, mostra come la comunità francese, la società francese, che è storicamente stata uno stato accogliente, ha accolto tutti i profughi, tutti gli esuli, tutti così eccetera, per scopi che sono, come dire, che non stiamo ad analizzare qui, governo socialista di questo paese c'ha un ministro dell'interno che costruisce le sue fortune politiche sull'idea, su un'idea molto diffusa nella nostra cultura, molto condivisa, che qualunque colore politico abbia una persona, se governa, quello che deve fare, la prima cosa, è pensare ai suoi. Se è francese, pensare ai francesi, se è italiano, pensare agli italiani. Per esempio, la stessa cosa l'ha detta il ministro Alfano ieri. Esatto. Identica. Ha detto, noi siamo per l'accoglienza, mica li possiamo accogliere tutti però, perché prima dobbiamo pensare agli italiani. Beh, Alfano l'ha anche fatto per uscire da un momento di impasse, dicendo una banale retorica legata a un sistema di destra, per cui in un momento di difficoltà, dei funerali farsa, dopo le critiche non ne sapeva come uscire, ho detto butto lì questa, secondo me, così ci prendo sicuro. Ma io però credo che ci sia qualcosa di più, perché in qualunque strato della popolazione, in qualunque ceto sociale, in qualunque formazione culturale, oggi vige l'idea che prima pensi a te e poi pensi agli altri. Quindi io non lo considererei solo di destra, quello che ha detto Alfano non è solo di destra, è trasversale, tant'è vero che è condiviso anche in tanti settori della sinistra, e tant'è vero che ci può essere un ministro socialista che lo condivide. Cioè, in definitiva, l'idea è che noi dobbiamo essere accoglienti, ma prima però dobbiamo pensare alle conseguenze che questo ha su di noi, che comporta su di noi. Ora, questo è la cosa che bisogna discutere, ma che è un problema di valori, non è un problema solo di colore politico, perché va al di là di ogni colore politico. Tant'è vero che tanto consenso senza colore politico si coagula attorno a questa, che sembra una banalità, ma che è un valore condiviso nella nostra cultura. Un valore condiviso. Quando un bambino arriva da scuola che l'hanno menato, la prima cosa che i genitori gli dicono, di destra o di sinistra, menalo anche tu. Il che vuol dire, prima pensa a te. Non gli chiedono ma perché t'ha menato, ma che è successo, ma perché, ma un momento, fate la pace, forse gli hai fatto qualcosa, forse se t'ha menato c'è qualche motivo, e così. No, Per cui il valore, quel valore lì è molto condiviso. Allora o noi sconfiggiamo quel valore, oppure destra o sinistra, quella cosa lì ha un'audience spaventosa, anche perché si basa fondamentalmente quella convinzione su un'idea abbastanza razionale, poi in definitiva, che noi, se non possiamo fare molto per noi, come facciamo ad accogliere altri? Se siamo poveri, se abbiamo il 12% di disoccupazione, se abbiamo tutti i giovani a spasso, se abbiamo, come facciamo ad essere accoglienti? Che vengono qua poi, e se li accogliamo davvero gli dobbiamo dare un lavoro, gli dobbiamo dare una casa e così via. Per cui, e questo è il vero punto fondamentale della questione. E tu hai detto però che è un pensiero molto razionale, quindi ha anche una sua fondatezza, una sua logicità. Come lo superiamo? Ecco, il punto è fondamentalmente che quando arriva, non è, si basa su una cosa non vera. La cosa non vera è questa, che chi arriva da una storia terribile di guerra, di esilio, di tortura, di persecuzione, o soltanto di povertà, o soltanto di mera povertà, arriva in un paese in cui c'è benessere, non possiamo confrontare la storia di quella persona con la storia di qualunque diseredato di un paese in cui c'è benessere. Perché un qualunque diseredato di un paese in cui c'è benessere sta molto meglio di chiunque arrivi dal deserto di tipo sociale o dalle violenze più spaventose. Per cui quello che noi abbiamo smarrito è un senso delle proporzioni, cioè un'altra razionalità, che è quella di considerare che, cioè, noi quando un altro ci mette in pericolo non è che consideriamo chi è e perché ci mette in pericolo, ma ci mettiamo in allarme perché ci mette in pericolo. Questa è la verità. Allora è questo punto che dobbiamo sconfiggere. Accogliere un altro vuol dire pensare prima a lui, non pensare prima a noi, per definizione, perché altrimenti se tu quando accogli un altro pensi prima a te, tu non lo puoi accogliere, stai semplicemente facendo una contrattazione, un negoziato su cosa ti conviene fare. Tant'è vero che noi non è che li accogliamo, li usiamo, gli facciamo raccogliere i pomodori a condizioni terrificanti, noi li usiamo, non li accogliamo. Tant'è vero che l'argomento razionale più potente per convincere quelli che pensano a sé è quello economico, secondo il quale i vantaggi, i punti di PIL che gli immigrati producono compensano di gran lunga quello che noi ci perdiamo quando pensiamo prima a loro che a noi. Bene, io andrei in pausa musicale, però prima, Willy, ricordiamo ai nostri ascoltatori che avremo anche bisogno di loro. Eh sì. Se intervengono in qualche maniera, può essere l'SMS o il WhatsApp, perché adesso ci siamo tecnologicizzati ancora di più, quindi potete mandarci un WhatsApp, un messaggio WhatsApp o un SMS al 333 180 94 94 oppure numero di telefono 051 34 64 58. Dico bene o è quell'altro? No, va benissimo. Perfetto. Ma guarda un po', allora ascoltiamo un po' di musica. Lauren Vula, Green Garden, vi offro un po' di verde. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathing the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. And I'll fly on the wings of a butterfly, high as a treetop. Down again, putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathing the sunlight. 16:19 minuti, 103.1 di questo mercoledì 23 ottobre, oltre la crisi, insieme a Francesca Clementoni e Francesco Campione. È arrivato un contributo, cara Francesca. Sì, mi sono appena presa della sessista, ma comunque andiamo avanti. Sarà oggetto di un'altra trasmissione. E di denuncia. Perché, e di denuncia, perché stiamo parlando d'altro. Abbiamo un ospite al telefono, Giorgia, se non sbaglio, giusto? Pronto? Buongiorno, pronto. Buongiorno Giorgia. Salve, io intanto vi ringrazio per questa possibilità che mi state dando. Volevo dire al signore che ha appena parlato che, oltre chiaramente a essere assolutamente d'accordo con quello che dice, io però toccherei anche un tastino che potrebbe sembrare un po' impopolare, però guardate, è davvero molto più concreto di quanto uno non possa immaginare. Noi viviamo nel paese del femminicidio. Viviamo nel paese dove le violenze domestiche sono, penso, ai livelli più alti che ci sono in tutta Europa. E io non so, queste persone che vengono, scusate, faccio probabilmente un errore un po', come si chiama, un po'... cado un po' in basso a dire forse certe cose, però io premetto che sono per l'accoglienza, assolutamente, su questa cosa non c'è, cioè, fuori discussione proprio, e credo anche che la parola accoglienza significhi mettere prima l'altro, ma proprio per questo, perché fra di noi, di queste persone che comunque vengono, crescono in ambienti violenti, che hanno problemi seri con la violenza, ne abbiamo già tantissime. Allora io mi chiedo perché tante persone che arrivano magari e non sappiamo però se sono disposte, fra virgolette, a cedere una parte della propria identità, no? Per poter integrarsi meglio nella nostra cultura. Ecco, questa è una cosa che a me francamente spaventa un po'. Ecco, poi io vorrei sapere anche gli altri punti di vista su questa cosa qua, perché diciamo che sono un po', sono più concreti di quello che uno non pensa. Assolutamente, ma infatti è proprio su questi esempi concreti che noi vogliamo lavorare, esattamente su questo. Ed è assolutamente interessantissima la tua domanda, anche perché giustamente si diceva molte sono persone che vengono da situazioni di violenza, quindi magari conoscono anche solo quello come linguaggio, perché succede a un marocchino, ma succede anche un italiano che si è vissuto, ecco. Brava, e quindi chiediamo a Francesco di parlarci un po' proprio di questa cosa. Ti ringrazio molto per aver messo questo accento. Niente, grazie a te. Certo, ciao, a tutti, ciao. La ragione per cui noi, perché la domanda è abbastanza importante, ed è una domanda che fa capire come mai, come dire, certi atteggiamenti di paura sono trasversali. No, non hanno colore politico. La domanda infatti è: ma chi ce lo fa fare se le cose stanno così, no? La risposta secondo me è perché non possiamo farne a meno. Qui non abbiamo possibilità di scelta, nel senso che siamo di fronte ad una migrazione epocale che non potremo assolutamente, dalla quale non potremo assolutamente sottrarci. Quindi su questo punto credo che noi non abbiamo molti margini di scelta o di manovra. Non possiamo dire di no, siamo costretti. Il problema è come noi poi... come ci coordiniamo. Ecco, per esempio, una cosa che facilita l'affrontare e gestire bene problematiche così complesse, per esempio tante persone che vengono da ambienti violenti e questa violenza tendono a portarla da noi, no? E magari... che ne abbiamo già, certo, quelle dei sacchetti. Come allora, dire. Non potendo fare a meno di prendere tutto questo, perché corrisponde a una cosa che non dipende dalla nostra volontà, no? Noi dovremmo lavorare su quello che si può fare per modificare questa situazione. Arrivano qui violenti, noi li dovremmo trasformare in cittadini di uno Stato democratico liberale. D'accordo? La domanda è: in quanto tempo? Cosa siamo disposti a fare per fare questa trasformazione? Allora, una cosa che può essere utile è uscire da quella mentalità emergenziale che fa tanto male e prendere coscienza del fatto che, come è stato per me che sono siciliano e mi sono integrato dopo tre generazioni, per quelli che vengono da un mondo più distante ce ne vogliono 4-5 di generazioni, purché però in quel tempo noi realizziamo politiche di integrazione, reali politiche di integrazione. Ora, quindi, non è che non si possa fare niente e l'unica cosa da fare è dire non li vogliamo, perché tanto li dobbiamo prendere. No, non possiamo non volerli, però non possiamo poi, una volta che siamo stati costretti a prenderli, pensare che non ci sia niente da fare. C'è molto da fare, ma in una scala temporale molto più realistica. Non è possibile pensare che grandi masse di persone che appartengono ad altri mondi, che hanno altre lingue, che vengono da storie terribili certe volte, vengano da noi e si comportino bene. E solo una maestrina ingenua può pensare tutto questo. No, non ce l'ho con la nostra interlocutrice, ovviamente dico la figura della maestrina ingenua ipotetica, d'accordo? Secondo me dobbiamo inserire questa nostra paura in una ottica di lunghissimo periodo, cioè noi dovendo gestire una migrazione biblica, noi dobbiamo attrezzarci con una controrisposta culturale all'altezza della situazione. È qui che noi ancora siamo impreparatissimi. Primo punto, semplicissimo: possibile che pensiamo di fare accoglienza coi fichi secchi? Non si fanno manco i matrimoni coi fichi secchi, figurati se fa l'accoglienza coi fichi secchi. Cioè, le attrezzature che noi abbiamo soltanto per dargli l'acqua e sfomarli quando arrivano sono totalmente insufficienti. Figurarsi le attrezzature quanto sono insufficienti per farli sentire accolti. Esempio semplicissimo: un paesino vicino a Catania che si chiama Mineo, 4.000 abitanti, deve accogliere 5.000 immigrati. È mai possibile una cosa del genere? Chi l'ha escogitato tutto questo? È semplicemente, come dire, da mettere al manicomio. Chi ha pensato questa cosa qui è da internare, perché è assolutamente, totalmente privo di razionalità. Senti, ma tu dovresti essere un uomo basagliano, però, e mi dici internare in manicomio, mi sei cascato sulla buccia di banana. No, ma ti dico sto subito. Ma l'ho detto per il suo bene, secondo me. No, ma io è un invito a nozze, questo. Certo. Questo è un invito a nozze, perché secondo me, è come dire, Basaglia si basava sull'idea che i matti fossero guaribili. Ma ci sono matti inguaribili. Che però non vengono riconosciuti. Ci sono matti inguaribili. Che sono in giro. È il momento della pubblicità. È il momento della pubblicità, ma ritorniamo. Non è una minaccia, è una promessa. Intanto, messaggi al 333-180-94-94. Quante volte l'ho detto? 94, perfetto, sei stata bravissima. Io dico lo WhatsApp 051 SMS. Anche però. Vai. 3464-58. E ringraziamo Giorgia che ha rotto il ghiaccio delle telefonate. Wow. Radio Città Fujiko, 103.1 FM. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine. issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand. Soothe the local unwed mother. Grandma's hand. Used to ache sometimes and swell. Grandma's hand. Used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. Grandma's hand. Used to hand me a piece of candy. Grandma's hand. Pick me up each time I fell. Grandma's hand. Boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core. But I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Primo disco di Bill Withers che ci riaccompagna in questo rientro alla diretta delle 13:33 minuti. Beh sì, un po' gonfio anche per i complimenti che sono arrivati alla selezione musicale da parte del professor Campione. Noi ce li prendiamo tutti, ovviamente. Certo. Non mi apri il microfono. No, è che c'è sto tastino. Ci sono? Uno, sì, due, tre, no, prova. Ok. Posso aggiungere una cosa? L'espertone sei te, ma voglio aggiungere un'ultima cosa per chiudere il discorso di prima e poi avviarci a confondere ancora di più le carte. Io penso anche una cosa, nell'immediato, perché tu hai detto ci vuole tempo. Giustamente, per una persona come Giorgia che ci ha telefonato e che ha espresso un timore, magari può essere non sufficiente questa risposta, o meglio, a placare il timore. Io penso anche un'altra cosa, però. Approcciare le persone, anche se hanno avuto esperienze violente, eccetera, eccetera, con gentilezza e con un modo di fare differente, da subito dà un segnale che spiazza l'interlocutore. E quindi anche, diciamo, la dote di violenza che uno si porta dietro per i motivi più svariati in realtà tende a placarsi e a diminuire. Questo per dire nell'immediato. No, dopodiché non, è chiaro che ma non per niente noi ci chiamiamo Francesco, no? Perché questo è scusami, questo è precisamente quello che ha fatto San Francesco col lupo di Gubbio. Quando il lupo di Gubbio, che faceva paura a tutti e nessuno entrava più nella foresta, si è trovato di fronte a San Francesco, nudo, inerme, senza bastoni per dargli in testa, sai cosa ha fatto San Francesco? Francesco l'ha chiamato fratello ed è questo che l'ha calmato, no? Cioè, allora, quello che stai dicendo tu, lungi dall'essere una cosa, come dire, adesso noi non abbiamo certamente il tempo, ma è ovvio che c'è un tempo in cui noi con quella violenza dobbiamo farci i conti. Ma noi, come San Francesco col lupo di Gubbio, ci possiamo fare i conti chiamandoli fratelli o ci possiamo fare i conti facendo la faccia feroce con loro. E quindi alimentando violenza su violenza, perché certo, poi è così. Quindi naturalmente non sempre il lupo di Gubbio si calma a chiamarlo fratello, ma il fatto di chiamarlo fratello vuol dire che tu in quel momento gli stai riconoscendo delle buone ragioni per cui quello è violento. E quando tu a un violento riconosci le sue buone ragioni, il violento si calma. Bella. E adesso rimodifichiamo tutto, ricambiamo le carte in tavola, guardiamo punti di vista differenti, sempre in tema migrazioni e comunque esplorazione del mondo. Dicevamo che la settimana scorsa, sul finir della puntata, praticamente in sigla, ci è arrivato un SMS e abbiamo promesso di riprendere proprio da lì. E questo era l'SMS firmato da Stefania. Sono stata una fuorisede, torinese di origine, e ho vissuto in altre città europee, eppure non mi sono sentita una migrante. Così come non considero migranti i miei amici che vivono in Europa. La mia generazione ha sviluppato una sorta di senso di cittadinanza europea, che evita questo effetto, si domandava, cioè questo effetto di sentirsi migrante. Questa è un po' la questione che ci poneva Stefania. Certo, certo, Stefania mette in evidenza precisamente quale dovrebbe essere la direzione che noi dovremmo prendere. Cioè, in definitiva, Stefania è come se dicesse: guardate che non è che bisogna aspettare i migranti per sentirsi diversi in un paese diverso, perché noi tutti abbiamo una storia, la storia dell'Europa è la storia, è una storia di emigrazione da un paese all'altro, che è sfociata nell'ultimo periodo, per fortuna nell'ultima fase, attraverso l'Erasmus, è sfociata in un appunto sentimento per cui un giovane italiano va in Germania e non si sente italiano o tedesco, ma si sente assimilato. Un giovane tedesco o spagnolo viene in Italia e non si sente della sua nazione. Ora, però, noi in quanto tempo ci siamo arrivati lì? Quante lacrime, quante incomprensioni, quante pregiudizi abbiamo dovuto superare per fare questo? E la strada è questa anche coi migranti. Il problema è, appunto, perché, che cosa è accaduto? Come siamo passati dalla sistemare le baracche per gli immigrati italiani ai margini delle città tedesche e trattarli come cani che non potevano entrare nei locali? Vietato l'ingresso agli italiani, c'era scritto, i cani entravano, gli italiani no, d'accordo? Nella civilissima Germania, quando ero ragazzo io, quindi non tanto tempo fa, d'accordo? Come abbiamo superato tutto questo fino al sentimento di Stefania che viaggia e non va in si Germania, sente, magari, va in Germania e si sente tranquilla, una turista, una persona, certo, che certo, va a scoprire il mondo. Allora, ci sono due tesi su questo punto. La prima tesi è che l'abbiamo superata attraverso l'acquisizione di una sempre maggiore somiglianza, cioè siamo diventati, prima eravamo poveri e loro ricchi, adesso siamo tutti e due ricchi e ci somigliamo, e quando ci incontriamo ci annusiamo e non c'è grande differenza. Abbiamo gli stessi profumi, usiamo le stesse scarpe, usiamo lo stesso linguaggio, frequentiamo lo stesso, sentiamo la stessa musica, siamo diventati... Noi mangiamo meglio. Noi mangiamo meglio, certo, certo. Sì, noi confermo, noi mangiamo, sì, meglio, sono convinto. Però abbiamo scoperto che anche i Wurster sono buoni. Non solo, ma la cotoletta in Austria, noi non la sappiamo fare, la cotoletta, la Wiener Schnitzel, non la sappiamo fare. No, ma ho voluto lanciare così una provocazione barra battuta. Bravo, ma è verissimo, per ogni paese ha delle caratteristiche. Questo sciovinismo delle cose è perché noi non conosciamo la cucina tedesca, che ci sembra che la nostra sia migliore. Ma se la approfondiamo e la conosciamo, va a finire che, come dire, si equivalgono. Io a Zurigo mangiai benissimo. Certo, certo. Allora il punto è come ci siamo arrivati lì. Una strada è la somiglianza, no? Tant'è vero che adesso che non si emigra più soltanto come Stefania per andare a studiare, ma di nuovo si emigra per andare a lavorare, la somiglianza non c'è più e di nuovo si può tornare indietro, perché si può anche tornare indietro, non immaginiamoci che... Anche se devo dire che è diversa l'accoglienza oggi di un ragazzo italiano che va all'estero a lavorare rispetto a un ragazzo negli anni 50 che arrivava all'estero per lavorare, è completamente cambiato. Ma anche perché quel ragazzo non è semianalfabeta come i ragazzi che andavano negli anni 60, quel ragazzo sarà ingegnere, avrà studiato, perché se no non lo prendono neanche alla frontiera. Quindi c'è una differenza abissale tra quel ragazzo che emigra oggi e quello che emigrava negli anni, certo, prima del nostro boom economico, no? L'altra via, oltre alla somiglianza, è appunto quello di costruire un mondo comune, ma non perché ci si somiglia, ma perché è un mondo comune che può fare spazio per tutti, per quanto diversi siano tra di loro. Allora, l'altra strada, che purtroppo è in crisi, una è quella, siamo diventati tutti ricchi e ci somigliamo, punto. Cioè, abbiamo studiato tutti, mentre prima quelli erano analfabeti. L'altra strada è, ci siamo messi insieme a costruire un mondo comune, per esempio l'Europa, per esempio un spazio non solo economico, ma economico-sociale, culturale, così eccetera, in cui l'italiano ci entra se lo rispettano, Il francese ci entra se lo rispettano, lo spagnolo ci entra se lo rispettano. Pensate il tremendo problema che c'è da risolvere in Europa, di quale lingua si può adottare. Mica si possono parlare tutte, ma quale si adotta? Nel momento in cui, per esempio, a Bruxelles si traduce tutto, si parla in inglese o in francese e si traduce tutto solo in tedesco o in francese e tutte le altre lingue vengono escluse, come si devono sentire gli spagnoli e gli italiani? Gli spagnoli e gli italiani non si sentono accolti, non sentono che quel mondo lì è un mondo comune. E non sentendosi accolti, il mondo comune non si costruisce e le diversità si accentuano invece che ridursi. Cioè, quindi noi abbiamo due strade: somigliarci e costruire un mondo comune. Come dal punto di vista della somiglianza abbiamo fatto più strada, dal punto di vista della costruzione di un mondo comune abbiamo fatto meno strada. Si potrebbe anche arricchire la situazione approfittando delle diversità viste come motivi di crescita invece che di differenza. Certamente, per esempio, quello che l'apporto, che vale anche per gli immigrati questo, quando arriva uno da una cultura che non è la tua, ti porta una ricchezza spaventosa, sì. Una ricchezza spaventosa, ti porta un altro mondo. Cioè, quando tu componi, per esempio, se componi a 24 l'Europa, tu hai una ricchezza che è data da 24 mondi. Ma se arriva un altro dall'Africa, no, tu hai un altro mondo ancora, sono 25, non sono 24. Ora, però, la ricchezza, va amalgamata, integrata, certo. Va tradotta in qualcosa di comune. Perché se uno arriva qui con una enorme ricchezza, per esempio la cultura iraniana è una cultura spaventosamente ricca e ci sono iraniani che avrebbero da insegnarci tantissime cose, per esempio nell'erotismo. No, beh, vabbè, nell'erotismo, faccio un solo esempio, avrebbero da insegnarci tantissime cose. Ma che possibilità hanno se non gli facciamo spazio nel nostro mondo, rispettando il loro mondo e facendo sì che ci sia una tutela della diversità in un mondo comune? Allora lì siamo indietro. Su questo siamo indietro. La grande Persia, poi dicevo in precedenza, del resto ha dominato il mondo solamente non con le guerre, ma col commercio e la comunicazione. Perché vendevano tessuti. E la cultura. E la cultura, certo. Mercato, cultura. Comunque meglio il commercio che la guerra. Ah, indubbiamente, anche perché sicuramente. Sì, sì. La guerra. Dopodiché, oggi però si fa la guerra attraverso il commercio, attraverso l'economia. Quindi sono riusciti a unire questa cosa. Incredibilmente, infatti. No, ma se io sono un buon commerciante e riesco a venderti le cose senza importarle con la forza, tanto meglio, perché poi questo è il punto. E poi magari fa anche il tuo bene, perché ti vende cose utili, perché ti ho convinto, ti ho parlato e ti ha dato cose utili, certo. Comunque coglievo l'occasione per dire, fra l'altro, che dopo tutte queste giuste e condivisibili parole vi è poi l'aspetto della spersonalizzazione, nel senso che io ho fatto un esempio su me stesso quando ero ragazzino, questa sofferenza che ho vissuto del fatto di non avere la compagnia. Perché può essere tradotto a questo discorso? Perché nell'accettazione, che è una parola che io preferisco piuttosto che tolleranza, accettazione, vi è anche questo aspetto di paura di spersonalizzazione. Quindi io a che gruppo appartengo? Quindi io che realtà vivo? Quindi io a che cosa mi posso legare? A che cosa mi posso condividere, attaccare? Via discorrendo con tanti altri aggettivi, ma soprattutto il discorso, come dicevo, della perdita di identità, che quando poi dopo ovviamente si cresce, la risposta che ho avuto più spesso è: meno male che tu da ragazzino non hai avuto una compagnia. E lo sono anche adesso molto fiero di non aver mai avuto una compagnia o qualche amico con cui mi frequentavo. Ma l'idea proprio di quella: ci troviamo col motorino, facciamo tutti la stessa cosa, ci troviamo, andiamo lì e tutti i giorni si va al bar, questa cosa qui a me è mancata tantissimo allora. Adesso la vedo come invece una mia grandissima fortuna non aver avuto questo stereotipo, mi permetto di dire, riflesso a una grande nazione, riflesso agli abitanti di una, permettetemi di dire, patria, si può tranquillamente dire, quindi ok, io accetto questa cosa e poi di me E certo, questo potrebbe certo, essere certo, no. No, ma questo è importantissimo, perché psicologicamente, adesso lasciatemi un attimo fare lo psicologo. Sì. Lasciatemi un attimo solo fare lo psicologo. Psicologicamente il bisogno di appartenenza corrisponde a un bisogno di sicurezza, è un modo per esprimere il bisogno di sicurezza. Questo è il mio mondo, questo è il gruppo a cui appartengo, qui mi riconoscono, qui sono io, qui sono persona, no? D'accordo? Però questo bisogno, attenzione, è l'esempio della patria che veniva fatto prima, è molto importante da questo punto di vista. Questo bisogno si acuisce tanto più quanto più rischioso è l'ambiente esterno. Tu hai tanto più bisogno, cioè non è che bisogna pensare, l'esigenza di sicurezza di un bambino, per esempio, è un'esigenza che diventa spaventosamente impellente, e quindi l'appartenenza poi lo può rassicurare, così, cioè, o di un ragazzo, perché attorno c'è un mondo ostile. Se attorno non c'è un mondo ostile, l'insicurezza si gestisce in un altro modo. Non è così tremenda l'insicurezza, e può far sì che, per esempio, educativamente non venga schiacciato l'altro senso fondamentale, l'altro bisogno, che è il bisogno di libertà, che è molto più importante. Di libertà, il bisogno di entrare in contatto con altri, i diversi, non quelli a cui appartieni della tua patria, ma quelli che sono proprio, che ti interessano proprio. Infatti. Perché sono diversi, perché hanno qualcosa di diverso un da te. Un po' come quando si lascia la mano della mamma per andare Bravissimo. A esplorare il mondo, insomma. Bravissimo. Da piccolini. Il problema è se il mondo attorno è ostile. Allora le patrie si basano, la patria di solito si basa, il senso di appartenenza in tutti i posti, anche per esempio nel mondo economico, il senso di appartenenza è semplicemente il risvolto della paura del nemico. Certo, infatti mi sono ritenuto della molto... paura del nemico. Allora se c'è la pace attorno, quel senso di appartenenza, quel bisogno diminuisce, e tu puoi accorgertene anche da ragazzo, non devi aspettare da grande. No, certo. Ti puoi accorgere anche da ragazzo che è una via sbagliata, quella di affermarti come te stesso, con la tua faccia di fronte a un altro, e quell'altro non ti può mancare di rispetto, perché se no ti nega, e così via. Cioè, no, tu te ne accorgi certo. anche da ragazzo. Bisogna spiegarglielo però a un ragazzo, perché si è certo. molto deboli da adolescenti, si è convinti di dominare il mondo e di essere invincibili. Da un certo punto di vista lo si è, perché in effetti io stesso, che ho vissuto un periodo travagliato, diciamo, mi sentivo molto forte, perché dentro di me c'era sempre quell'idea che un domani c'è, e poi mi sentivo ovviamente anche vigoroso fisicamente, però dall'altra parte si è vulnerabilissimi proprio sì, per questi concetti. Ma perché si dà per scontato che non ci sia niente da fare su quella sensazione che uno ha quando deve crescere, e cioè che non si sa se gli altri sono dalla tua parte o sono contro di te. Certo. Questo è il vero punto di fondo. Se si sapesse che gli altri sono dalla tua parte, tu te la prenderesti più comoda, potresti sì. aspettare, no, non avresti tutta quest'ansia di farti un'identità, di sapere quel cavolo che vuoi dalla vita, che tutti ti dicono ma cosa vuoi, ma cosa vuoi fare, lo devi dire, potresti aspettare tranquillamente, perché sei sicuro che non ne approfittano. Certo, a noi piacciono tantissimo queste cose, queste realtà che sono però un pochettino di utopia forse, però perché no, parlarne magari una piccola goccia nell'acqua riesce indubbiamente a fare qualcosa, indubbiamente. Io ricordo i numeri, perché avete già detto tutto prima di tornare, come dire, in musica. Vogliamo andare in musica? Sì, guarda, sì. Te lo metto già qui a bassa voce, Bravo. A basse note. Io intanto ricordo, SMS o WhatsApp al 333 180 94 94, oppure seguite l'esempio di Giorgio e ci chiamate allo 051 34 64 58, a fra poco, tra un po' per i saluti. Don't worry whether you finish, our house will surely demand that. 53, quasi in chiusura per questo mercoledì 23 ottobre, per la nostra terza puntata di Oltre la crisi, insieme al professor Francesco Campione, una situazione, diciamo così, che è arrivata a toccare vari argomenti fino alle risate di Francesca, che in questo momento... Vabbè, io sto ridendo per un altro motivo, per la trasmissione. Dopo ve lo racconto fuori onda. Ok, perfetto. Allora, tornando invece in onda, per così dire, dicevo di vari punti toccati, fino al discorso di problemi relativi a una situazione che si vorrebbe fosse reale, ma è alquanto a livello di utopia. E a me è scappato detto invece fuori onda: probabilmente tutto ciò è anche dovuto a dei sentimenti arcaici. Per esempio, a quale sentimento arcaico ti riferisci? Beh, sentimenti arcaici, quello della paura del diverso, è un timore, è un termine improprio, diciamo così. Ma va benissimo, ho più capito. Che sentimento, sensazioni o formazioni psicologiche arcaiche, come ad esempio si vede anche in natura fra animali, nel senso che se uno libera un branco di pulcini non vanno subito a cercare i loro fratellini o sotto l'ala della chioccia, non vanno certamente vicino alla mucca, per dire. Ma questa è una cosa, certo, ma questa, io sono stato proprio minimale, primitivo che più non si può. Ma questa cosa amplifichiamola, benissimo. Hai capito? Certo, no, ma il punto è questo lascito della nostre origini, nella natura, noi non dobbiamo trascurarlo, noi siamo esseri naturali e in questo senso, però attenzione, qui c'è un problema antropologico, no? Quando per esempio si dice che certe cose arcaiche, chiamiamole cose arcaiche in modo un pochino più, quando c'è il sentimento, per esempio la paura arcaica dello straniero, del diverso, di quello che non è come te, no? Di quello che ti presentifica qualcosa che tu non controlli e non sai come gestire, no? Quel sentimento lì, per esempio, è un sentimento ineliminabile, no? Ma attenzione, c'è un problema antropologico, no? Noi concepiamo l'uomo come passibile di un'evoluzione qualitativa o solo di un'evoluzione quantitativa? Oggi c'è, come dire, un'idea dell'uomo come un'idea statica della sua natura, perché se l'uomo è un essere naturale, no? L'uomo, come dire, gira, certe cose non le potrà cambiare, saranno sempre uguali. Se ha fatto sempre la guerra, la farà sempre. Infatti i pessimisti sono così, sono, no? Così. Dicono così. Se ha fatto sempre la guerra, tu che fai predicando che la guerra non è possibile? Perché corrisponde a qualcosa di arcaico, a un sentimento naturale, profondo, l'avversione per l'altro. L'altro, siccome tu non ci puoi andare dentro l'altro, è sempre minaccioso. Perché non sai che cosa farà quell'altro. L'altro viene a letto con te e pensa un altro. È terribile, no? e tu non lo sai neanche. Ah, non c'è dubbio. Non lo puoi neanche sapere. Non c'è la telepatia. Però, e infatti dici, che pensi? Tu lo guardi negli occhi. È vero, che pensi? Che pensi? Che pensi? Non te lo posso dire. È meglio che non te lo dica. No. Cioè, quindi, certamente, non bisogna sottovalutare tutto questo. Però, attenzione, c'è un'altra, come dire, possibilità, che corrisponde a un'altra tradizione di pensiero, poi in definitiva, no? Cioè un'altra concezione dell'uomo, cioè che nell'uomo ci sia qualcosa che va oltre l'uomo, no? Qualcosa che in qualche modo lo apre a orizzonti che non si sa quali possono essere, no? Allora, siccome, come dire, non abbiamo nessuna certezza che sia così o che sia pomì, perché abbiamo prove che confermano una cosa e altre che... Per esempio, possiamo dire, i pessimisti dicono, si è fatta sempre la guerra, ma ci sono sempre stati quelli che hanno lottato per la pace. E ci saranno sempre, no? Ci sono, c'è il mondo com'è, come è sempre stato, e c'è chi non si stanca di concepire utopie. Ci sono tutti e due. Sì. Allora, il nostro problema è se vogliamo che l'umanità, siccome si equivalgono dal punto di vista antropologico... Dici che si equivalgono, si equivalgono queste due realtà? Si equivalgono, sono due credenze, non sono due ma fatti. Ma io sto parlando proprio numericamente, cioè... No, no, no, ma come concezioni come dell'uomo concezioni. Si equivalgono, che poi okay. Il problema è semplicemente educativo. Certo. Se se ci educhiamo a considerarci esseri naturali, faremo la guerra. Se ci educhiamo all'utopia, faremo la pace. Sì, certo. Il problema è che via vuole prendere l'umanità? Vuole stare sempre sulla stessa strada? C'è un'altra possibile via. Il problema è se la prendiamo oppure no. Perché se noi, il che cosa vuol dire? Sempre il problema del tempo. Noi possiamo riuscire a fare la pace se prendiamo la via dell'utopia per tanto tempo, non per poco non tempo, per, sì, non, per. Non per poco tempo, perché quegli altri vincono sempre, perché quella via è da lungo tempo che è stata presa. È da sempre. Questo è il punto. E siamo... sul tempo direi che... Se guarda, proprio abbiamo fatto perfetti. Una trasmissione che si è collegata con i discorsi gli un con gli altri. Ma è quello che vorremmo fare. Così oggi proprio siamo riusciti a dare l'idea precisa di come vogliamo raccontare e di come vogliamo anche che gli ascoltatori interagiscano con noi per raccontare noi esseri umani. Eh sì. E quindi a questo punto noi diamo appuntamento a mercoledì prossimo dalle 13 alle 14 sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Noi vi auguriamo buon pomeriggio da William e Francesca e Francesco, Francesco e San Francesco. Eh certo, come no, sì, vogliamo anche mai, il lupo va anche, vogliamo mai dimenticarlo. Lupo, vai, guai. Lupo dobbiamo tenerne conto. Fratello, fratello, nostro fratello lupo, parliamone. In studio il professor Francesco Campione.